America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Apple investors, if you've been buying and selling on the rumors, then get ready for some facts. Apple, partiamo con Apple. Risultati positivi, devo dire, sul fronte dei profitti, record, vendite andate tutto sommato abbastanza bene, ma il titolo nel dopo mercato ha perso il 10%. Come si spiega? Beh, si spiega in modo, direi, alquanto semplice. Il profitto che ha accumulato nel primo trimestre dell'anno fiscale in corso, che si è chiuso il 29 dicembre scorso, per Apple è stato di 13,1 miliardi di dollari, pari a 13,81 dollari per azione, quindi al di là delle aspettative che erano per 13,48-13,58 dollari per azione. Però questo non è bastato, perché il fatturato è stato a quota 54,5 miliardi di dollari, la cifra attesa era 55 miliardi di dollari, diciamo 500 milioni di dollari in meno. Ecco, questo è bastato, esattamente un 10%, a far crollare il titolo del 10%. Complessivamente, dai massimi di 705 dollari toccati l'anno scorso, l'Apple ha già perso il 30%. Pochi giorni fa era arrivata a 500 dollari per azione, dopo la batosta di ieri siamo a quota 460-62 dollari per azione. Ecco, credo che forse ci sarà un rimbalzo, perché insomma, com'è possibile che questo titolo straordinario possa essere così deprezzato, tra virgolette, del mercato? Beh, ma diciamo che le vendite di iPhone, pensate, 47 milioni di pezzi, anzi quasi 48 milioni di pezzi per il trimestre, e sono state straordinariamente buone. Nello stesso periodo dell'anno scorso si erano venduti 37 milioni di pezzi, quindi 10 milioni di pezzi in più. Eppure le stime erano per 48-50 milioni di pezzi. Di nuovo, il mercato penalizza, l'iPhone conta per il 50% del fatturato di Apple e dunque preoccupazione, perché vuol dire che c'è un attacco forte in arrivo da Samsung, che c'è un attacco forte dalla concorrenza generalizzata. Ci sarà fra pochi giorni, la settimana prossima, qui a New York, la presentazione del nuovo modello BlackBerry, che andrà in diretta concorrenza sia con Samsung che con Apple, e dunque il mercato è prudente. Acquistare? Beh, diciamo che c'è un precedente. Nel 2008 il titolo Apple ha perduto quasi il 50% nel giro di poche settimane, pochi mesi, è passato da 200 a 100 dollari. E qui non siamo ancora al 50%, siamo al 30, 32, 33%, forse arriveremo al 35%, si arriverà al 50% prima del rimbalzo, chi lo sa. Insomma, il mercato sta riflettendo, ma devo dire, questa è stata la storia della giornata di ieri, e la storia tecnologica e la storia della giornata di borsa di questi giorni, perché la settimana scorsa abbiamo seguito il titolo Intel, che non è andato bene per niente, una forte diminuzione delle vendite. IBM, Google invece sono andati piuttosto bene. Complessivamente la media del settore, parliamo di 70 titoli rappresentativi del settore, potrebbe chiudere il trimestre con una perdita complessiva degli utili dell'1,1%, insomma una cosa, direi, piuttosto rara. Ecco, ma perché Intel o Texas Instruments, insomma, non sono andate molto bene queste aziende del comparto tecnologico? Perché? Perché le aziende non investono, sono preoccupate dall'andamento dell'economia. Proprio ieri abbiamo avuto un pronostico del Fondo Monetario Internazionale, stime di crescita corrette leggermente al ribasso un po' dappertutto, stima di crescita mondiale al 3,5%, devo dire minima perché è stata corretta dello 0,1%, ma ci sono state delle correzioni invece al rialzo, per esempio per la Cina, che vola di nuovo al di sopra dell'8%, mentre l'anno scorso era stata al di sotto dell'8%, intorno al 7,6-7,7%, le cifre finali dobbiamo ancora averle. Gli Stati Uniti, beh, dovrebbero crescere attorno al 2%, non è un tasso davvero soddisfacente, non si capisce se si creerà occupazione a sufficienza, e dunque le aziende sono preoccupate e non investono. The House votes today to delay a political battle over the debt ceiling by increasing the government's borrowing power into May. Un voto importante ieri alla Camera. È stata approvata una proroga per la scadenza, per il tetto sul debito, che doveva scadere intorno alla fine del febbraio. Gli Stati Uniti avrebbero rischiato la bancarotta. Bene, i repubblicani hanno fatto un passo in avanti, hanno posticipato di 3 mesi questa scadenza. A questo punto si deve negoziare però sul disavanzo pubblico, ridurlo, si devono tagliare le spese. Ecco, lì ci sarà una battaglia forte. C'è una cosa che mi ha colpito dal punto di vista politico: il voto di ieri è stato di 285 voti favorevoli, 144 voti contrari, ma è la composizione che è interessante, perché ci sono stati 86 voti democratici che sono confluiti con quelli repubblicani, hanno consentito il passaggio di questa legge, mentre 33 irriducibili repubblicani hanno votato contro. Insomma, si sta formando una nuova maggioranza trasversale, bipartisan, in Congresso. L'abbiamo già visto alla fine dell'anno, quando questa stessa maggioranza ha votato per un aumento delle aliquote sui redditi più elevati e così ha salvato l'America dal fiscal cliff. A questo punto, vi dicevo, si dovrà negoziare. As I have said many times, I take responsibility and nobody is more committed to getting this right. I am determined to leave the State Department and our country safer, stronger and more secure. Hillary Clinton, beh, devo dire una gran donna, perché ieri ha fatto spettacolo, nel senso veramente positivo del termine, al Senato. Si è confrontata con questi senatori repubblicani che la attaccavano ferocemente e non gliela fatta passare una. Hillary, devo dire, una donna forte, ma anche una donna in grado di commuoversi. Sentiamo. For me this is not just a matter of policy, it's personal. I stood next to President Obama as the Marines carried those flag-draped caskets off the plane at Andrews. I put my arms around the mothers and fathers, the sisters and brothers, the sons and daughters, and the wives left alone to raise their children. Questo è il momento in cui è ricordato il ritorno delle bare dell'ambasciatore Stevens, di coloro che sono stati uccisi a Bengasi. The fact is, we had four dead Americans. Was it because of a protest, or was it because of guys out for a walk one night who decided they'd go kill some Americans? What difference at this point does it make? It is our job to figure out what happened and do everything we can to prevent it from ever happening again, Senator. Ecco, qua invece, quando risponde energica al senatore Jones, che si era permesso di criticarla, di usare un tono anche aggressivo nei suoi confronti, insomma, ha reagito davvero in modo ammirevole. Ha detto: ma il fatto qui è che ci sono quattro americani morti, era una protesta, era un attacco, che differenza fa a questo punto? Il nostro compito è capire che cosa è successo, fare il possibile per impedire che cose del genere si ripetano. Insomma, ha fatto un attacco alla strumentalizzazione politica che i repubblicani hanno fatto di questa vicenda di Bengasi. Vi dicevo, una gran donna. Chissà, forse è stato pensando a lei che Leon Panetta proprio ieri ha preso un'altra decisione storica, e cioè ha deciso che le donne d'ora in avanti potranno combattere al fronte in prima linea. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il gruppo indie folk Bon Iver ha segnato ieri un piccolo record. I due album della band hanno superato contemporaneamente, pensate, quota 500.000 copie vendute, hanno ottenuto la certificazione di disco d'oro dalla Recording Industry Association americana. E dunque a Bon Iver dedichiamo la canzone del giorno, Skinny Love. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!